così è meglio sto male. Ma che c'è papà, non sai bene? Non c'è confusione, non c'è portiere, non c'è rigore. L'attesa del calcio di rigore c'è solo quando stai male. Quando stai bene non c'è niente. Non è bene, non stare male. Non stare male. Non è stare bene, è non stare male. Non stare male. È una realtà difficile. È un po' di tempo che ti vedo. Io ti vedo. Ma te che con me? Sono molto casta. Molto casta? Viva? Sì. Ti posso dire una cosa? Ma io? Ma come sto? Tu? Dei bellissimi occhi. No, no, lasciami stare. Hai dei bellissimi occhi. Lasciami stare. Che tristezza c'hai? Inconfessabile. No, le mie invece sono confessabili. Che non me lo... No. Ah, ma questo è il tram in vita tua. Ma sempre. È vero? Sì. Il 30, il 30 sparato. Quella è la salvezza. Guarda, se ti va male prendi il 30 sparato è una bombetta. Altro che psicanalisi. Cara Rossella, sei sempre un riccione.